Plato, Apologia di Socrate, tratto da Platone, Dialoghi, nella versione di Francesco Acri, a cura di Carlo Carena, edizione CDE SPA Milano, su licenza della Giulio Einaudi Editore, Milano 1988. Il testo utilizzato per questa lettura proviene dalla biblioteca di Liber Liber. La presente lettura è stata realizzata per il progetto Libro Parlato di Liber Liber da Riccardo Fasol, revisione di Vittorio Volpi, marzo 2009. Sito internet www.liberliber.it/audioteca.